Signore e signori, le Boy Genius sono tornate. E voi direte, chi sono queste? Appunto, ho fatto un po' di pressione io per poter parlare di questa cosa, perché per me è stata una notizia bellissima, come se la mia squadra del cuore avesse vinto lo scudetto, come svegliarsi a Natale, trovare un sacco di regali sotto l'albero, insomma, una cosa del genere, soprattutto considerando che sono passati 5 anni praticamente dall'ultima volta che le abbiamo viste insieme. Per chi non le conoscesse, le Boy Genius sono un trio composto da Lucy Dacus, Phoebe Bridgers e Julian Baker, che sono queste tre artiste tutte dell'ambiente dell'indie rock americano, già in precedenza fan dei rispettivi lavori, che poi nel 2018 sono diventate amiche e hanno deciso un po' per caso di collaborare per la creazione di un EP che si chiama appunto Boy Genius, che ha dato poi il nome alla band. Sono 6 canzoni nell'EP, relativamente poche, però vabbè, sarò di parte io, ma sono delle canzoni veramente speciali, più che altro per la sincerità e la profondità con cui trattano determinati argomenti, che poi quando si è giovani alla fine sono sempre quelli, ma trovare qualcuno che sappia esprimere così bene le inquietudini quasi di una generazione non è scontato e non è sempre detto che venga così bene. Poi hanno fatto qualche apparizione insieme, ma fondamentalmente hanno continuato ciascuna per la propria strada e nelle proprie carriere da soliste, e penso di poter parlare per tutti quando dico che nessuno si aspettava che il grande ritorno sarebbe stato su un palco del genere. Nonostante le controversie riguardo al CEO dell'azienda che lo organizza, il Coachella rimane oggi uno dei festival musicali più prestigiosi e uno dei palchi più ambiti non solo in America ma nel mondo. Solo l'anno scorso hanno partecipato Harry Styles, The Weeknd, Billie Eilish, Maneskin, Doja Cat, la stessa Phoebe Bridgers, insomma un sacco di artisti importantissimi nella scena musicale contemporanea, quindi era un po' inaspettato che una band, non dico sconosciuta, ma che se ne è sempre stata un po' per le sue, si esibisse in un'occasione del genere, ma comunque direi che non ci possiamo lamentare, soprattutto perché questo potrebbe significare nuova musica, visto che appunto le ultime cose sono uscite 5 anni fa, quindi mi pare poco probabile che si esibiranno solo con quelle. Ovviamente per adesso non si sa ancora nulla, solo che hanno creato un profilo Spotify per la band, che fino a una settimana fa non esisteva. Personalmente penso che non ci deluderanno, anzi mi fido molto delle mie ragazze, quindi non disperiamo, ricordiamoci sempre che la pazienza è la virtù dei forti.